scenderà su dal cielo una città, mille angeli grideranno il suo nome, re dei re, e dal suo trono si udirà la sua voce, chiamerà i suoi eletti in tutto il mondo, vincerà ogni male, Gesù vincerà, e sulla fronte il sigillo del suo nome aprirà la sua porta a tutti i santi, entreremo con grido trionfante, solo sei figli entreremo nella città di splendore in eterno. Svegliati e ascolta le parole, io sono Gesù, Padre in eterno, il Re dei Re, tuo Signore, nessun nemico mai ti toglie.